potente. Innanzitutto grazie a tutti i partecipanti che sono stati sufficientemente numerosi in questo ciclo. Non funziona. Devi tenerlo più vicino. Dicevo grazie a tutti i partecipanti, ci rende orgogliosi la nostra partecipazione, perché non sono riunioni facili, cioè, si viene per ascoltare, si viene per imparare, tutti noi, non solo voi del pubblico, anche noi, e per questo che abbiamo organizzato questo ciclo di conferenze, che vi ricordo tra 15 giorni a Tremezzo, non sappiamo ancora in qualche sala, comunque a Tremezzo sarà Giuseppe Calzati, presidente dell'Istituto di Storia, a tenere una conferenza sulla la resistenza nell'Alto Lago, e fra esattamente un mese, il 6 di aprile, dovrebbe, perché le risposte certe le abbiamo ancora, unita sulla Costituzione, che chiuderà la cosa. Allora, vi presento, voglio dire una cosa prima in apertura. Abbiamo saputo oggi, alcuni compagni qui l'hanno già stata nominata, che nel comune di Monguzzo, di cui abbiamo una bella rappresentanza, soprattutto dove abbiamo la sezione più vivace davanti, il sindaco del comune di Monguzzo intitolerà una via a un ascaro, cioè un etiope che era stato integrato tra i carabinieri in Etiopia, con una motivazione, l'ha detto il sindaco, che dice: rendiamo onore a chi si è battuto per la nostra patria. Allora, definire un etiope collaborazionista dei fascisti che combatteva per la patria italiana in Etiopia sembra abbastanza forzata la cosa e abbastanza brutta anche. Se teniamo conto che in quel comune già l'anno scorso l'intervento dell'ANPI fece togliere una bandiera con una bandiera tricolore con fascio vittorio, se ricordo bene, passato dalla parte bianca, che era esposta in una villa, era stata esposta dei mesi, riuscite a toglierla, sembra che sia una zona che va tenuta sotto controllo. Su questa cosa non la lasceremo passare liscio, ovviamente. Adesso vedremo anche con Matteo Dominioni, che proprio Monguzzo aveva tenuto la conferenza sul colonialismo in Etiopia, cosa fare, comunque a costo di riempire il comune di manifesti, ci vedremo esattamente cosa fare, qualcosa chiaramente dobbiamo fare, non lasciarla passare. Allora, vi presento l'oratore di oggi, Claudio Siringardi, storico della resistenza italiana ed europea. Il suo tema è sulla resistenza europea, quella italiana l'abbiamo fatta con Pezzino 15 giorni fa. È stato fondatore e direttore del Museo Partigiano di Montefiorino e del Museo dell'Istituto Cervi. È direttore generale dell'Istituto Nazionale Ferruccio Parri, che ha sede a Milano, nella sede della Casa della Memoria. E sta scrivendo un libro, fra i tanti che ha già scritto ma non ha voluto darmi i titoli, sulla canzone d'autore nella resistenza, sulla resistenza, scusate. Io do subito la parola a Siringardi, vi auguro un buon ascolto e mi auguro anche che ci saranno tante domande da fare. Grazie. Bene, grazie a voi. Non è per niente facile, non è stato per niente facile preparare questa conferenza, e spero di riuscire a darvi così un quadro generale, perché capite che appunto parlare di resistenza in Europa è un tema molto vasto, il rischio è quello di citare molti episodi, molte situazioni, di creare anche un po' di confusione, più di quella che ho io in testa sinceramente, però proverò a dare prima alcune coordinate di carattere generale, poi, sempre tenendo presente, guardando sempre l'orologio, anche alcuni spunti rispetto ad alcune realtà europee, e poi se ci sarà tempo vorrei anche parlarvi di quello che è stato il contributo degli italiani nelle resistenze europee, e poi vabbè concludere questo intervento. Questo più o meno sarà diciamo l'andamento. Allora, intanto partiamo dal primo tema: resistenza europea o resistenza in Europa, perché c'è un problema effettivamente di chiarire che cosa intendiamo In effetti parlare di resistenza europea è un pochino forzato, perché in realtà non è esistito, come dire, un coordinamento delle resistenze che si sono sviluppate in Europa, e nemmeno i comandi inglesi e americani hanno messo in atto delle azioni o delle strategie che portassero, come dire, a dei momenti di coordinamento e di unificazione. Per cui, diciamo, è più corretto, ma sembra una questione formale, ma è solo per chiarire, parlare di resistenze in Europa piuttosto che appunto di resistenza europea. Perché? Perché in realtà quasi tutte le resistenze nascono ovviamente in una dimensione nazionale, se non tutte le resistenze nascono come reazione all'occupazione nazista o fascista. E quindi c'è il primo, diciamo, elemento, è quello della difesa della propria patria, quella vera, non quella che veniva citata adesso, e cioè quindi rispondere a un'occupazione nemica. Ma questo, come dire, è condizionato anche da come avviene questa occupazione, perché nella visione di Hitler, nella visione appunto del nuovo ordine europeo, non tutti i paesi che vengono occupati vengono trattati allo stesso modo. Si va dalla Polonia, che viene smembrata e che deve scomparire come entità statuale, come entità anche nazionale, a, che so io, la Danimarca, che invece viene rispettata, essendo i danesi, diciamo, pura razza ariana, come la Germania, vengono rispettate le istituzioni, e l'occupazione tedesca è un'occupazione molto leggera. E anzi, come vedremo, porrà anche alcuni problemi. Quindi, a seconda di come avviene l'occupazione, si ha una risposta diversa. Il fatto che le resistenze nascono come, diciamo, a carattere nazionale, non vuol dire che non siano presenti i valori di carattere più generale, che poi emergeranno nel corso della resistenza, di solidarietà verso i perseguitati, di solidarietà internazionale. Cominciano a delinearsi, lo vedremo alla fine, alcune idee anche su come dovrà essere l'Europa. Una parte dei partigiani hanno una visione, soprattutto comunisti, ma non solo, anche socialisti, hanno una visione internazionalista della prospettiva. Quindi, insomma, ci sono degli elementi che vanno oltre la dimensione nazionale. E c'è sicuramente, scusate ma per il raffreddore sarà così tutto il tempo, sicuramente c'è un elemento, diciamo, di movimento, è stato definito transfrontaliero, di militanti antifascisti, che sono gli antifascisti degli anni 20, degli anni 30, che hanno fatto la guerra di Spagna, che hanno vissuto tutta una serie di esperienze di lotta, che sono abituati al conflitto, alla lotta, che attraversano tutta l'Europa portando la loro esperienza, tant'è che in molte realtà nazionali a dare il via alla resistenza spesso sono esponenti, diciamo, persone che hanno vissuto l'esperienza della guerra di Spagna e quindi hanno già un'esperienza di guerriglia, anche se la Spagna non è propriamente una guerra, comunque hanno un'esperienza di guerra, di combattimento, perché poi appunto bisogna combattere. Più o meno, con alcune eccezioni che vedremo, anche l'evoluzione delle forme di lotta sono abbastanza simili, si possono intravedere, partono dalle reti di soccorso e di evasione, di aiuto a chi è perseguitato, gli ebrei innanzitutto, ma non solo. Poi dopo si sviluppa la propaganda clandestina, che ha un ruolo in alcuni paesi straordinario, appunto i giornali clandestini, in particolare ad esempio il Belgio, c'è un'esperienza straordinaria da questo punto di vista. Poi arriva il sabotaggio, arrivano le azioni di spionaggio, poi si arriva alle azioni, alle manifestazioni di protesta pubbliche, e infine si arriva alla guerriglia e poi alla lotta armata. Problema che, mentre in Europa passano 3-4 anni, diciamo, si comincia, alcune resistenze cominciano nel 40, finiscono nel 45, quindi è nell'arco di 4-5 anni che queste tipologie si sviluppano, quindi, come dire, con dei tempi dilatati. Ad esempio in Italia una delle specificità della resistenza italiana è che queste tempistiche sono assolutamente compresse. Cioè ci sono tutte, ma avvengono nel giro di 20 mesi. E questo è un po' quello che caratterizza la resistenza italiana rispetto alle altre resistenze europee. In tutto questo va rilevato, appunto, all'interno di questo discorso che viene fatto della resistenza senza armi, cioè di questa fase, ripeto, con alcune eccezioni che vedremo, della resistenza dove diciamo appunto si inizia con la solidarietà, con l'aiuto, è ovviamente da sottolineare, sarà stato sicuramente detto nell'azione sulla resistenza italiana, il protagonismo delle donne, che appunto dalle fasi iniziali di cura e di salvataggio poi arrivano anche loro ai momenti di un ruolo attivo di collegamento tra le formazioni, poi l'organizzazione delle manifestazioni di protesta nelle fabbriche, nelle piazze, fino alla partecipazione diretta alla lotta armata e infine alla rivendicazione di un nuovo ruolo nella società che si andrà a costruire dopo la liberazione. Quindi anche in questo caso, diciamo, sicuramente uno degli aspetti di maggiore rilievo dell'esperienza resistenziale è stato sicuramente quello di aver fatto, come dire, da traino a un nuovo protagonismo delle donne che in modo accelerato, come dire, arrivano a una nuova consapevolezza rispetto ai propri diritti. Tutte le resistenze in Europa si devono confrontare col problema del collaborazionismo, anche questo è sicuramente un aspetto comune che ha delle variabili, perché abbiamo alcuni casi dove c'è una sorta di collaborazionismo di Stato e quindi sono le istituzioni preesistenti che cercano, diciamo, un accomodamento con l'occupazione nazista, quindi cercano di trovare, come dire, un punto di equilibrio nella tutela della popolazione, nell'idea di, come dire, o meglio, nell'idea che sia inevitabile la vittoria nazista, perché sto parlando soprattutto della fase iniziale, cioè quando appunto sembra inarrestabile questa azione del nazismo di conquista dell'Europa, c'è l'idea di ritagliarsi un ruolo dentro questa Europa nazista e quindi di venire a patti, come dire, con l'occupante e così. Ma c'è anche un collaborazionismo invece ideologico, cioè in ogni paese ci sono persone che invece ideologicamente credono nella prospettiva nazista e si rendono disponibili appunto a combattere per i nazisti. È chiaro che nella nascita, ma soprattutto nello sviluppo delle varie resistenze, è decisivo l'atteggiamento degli alleati, sia per le strategie che elaborano rispetto a complessive che elaborano rispetto al futuro dei diversi paesi, la definizione delle aree di influenza, ma anche per gli aspetti più propriamente militari. Su questo portate pazienza, ma ho provato a individuare tre fasi. Beh, io adesso, cioè, tra le varie si possono individuare tre fasi, non hanno aspettato me per individuarle, insomma, le tre fasi. Sono la prima, è quella che vede la sola Gran Bretagna a combattere il nazismo, cioè abbiamo fino alla metà del 1941 l'unico paese che è in lotta in Europa contro il nazismo e il fascismo è la Gran Bretagna. In Gran Bretagna questo problema di sollevare, di alimentare una guerra clandestina, una guerra sovversiva in Europa si pone, anzi molti inglesi sono stupiti del fatto che gli europei non insorgano contro il nazismo nei loro dibattiti interni. Comunque si comincia a dare vita a delle strutture clandestine, cioè che devono lavorare con i movimenti clandestini, ma con molte perplessità che sono di natura militare, perché nessuno è preparato al tema della guerriglia, perplessità che sono anche quelle, come dire, che se si vadano a alimentare delle lotte, dei conflitti, poi non si riescono più a tenere sotto controllo, perché c'è il timore, come dire, che queste cose scappino di mano. E questo è, e quindi si immagina un ruolo della resistenza molto limitato, che è sostanzialmente informativo e di sabotaggio. Cioè inizialmente gli inglesi immaginano che la resistenza, la guerriglia, debba avere questa caratteristica, raccolta di informazioni per i comandi alleati e piccole azioni di sabotaggio. E quindi prevale una visione riduttiva della resistenza, che poi cambierà col tempo, perché, ripeto, anche gli anglo-americani e poi anche gli americani non avevano esperienze precedenti, cioè lo dirò tra pochi minuti, non avevano una conoscenza, nessuno aveva esperienza da questo punto di vista concreta, quindi come dire anche gli inglesi e poi gli americani cambieranno idea, cioè si adegueranno anche alla realtà, capiranno cosa si può fare in un posto piuttosto che in un altro, però in generale c'è comunque una visione riduttiva, se vogliamo tradizionale, cioè che appunto le guerre le combattono gli eserciti, che ci deve essere una gerarchia ben precisa, eccetera, eccetera. E effettivamente però ci saranno comportamenti diversi, come vedremo ad esempio nei Balcani, il comportamento degli inglesi rispetto alla nei confronti della Jugoslavia rispetto alla Grecia sarà veramente opposta. La seconda fase è quella che vede l'entrata in guerra degli Stati Uniti e dell'Unione Sovietica, che viene aggredita nel giugno del 1941. Rispetto agli americani c'è collaborazione sicuramente, ma c'è anche molta rivalità sia nelle strategie generali sia nel rapporto con i movimenti partigiani, insomma, cioè non vanno via sempre allineati. Nel caso dell'Unione Sovietica è chiaro che c'è soddisfazione perché c'è la prospettiva dell'apertura di un secondo fronte, cioè con l'apertura di un secondo fronte all'est comincia, come posso dire, si alleggerisce il peso della guerra condotta fino a quel momento solo dalla Gran Bretagna e si comincia a prefigurare la possibilità di uno sbarco di un secondo fronte, dell'arrivare sul territorio europeo per cominciare poi a sconfiggere il nazismo. Ma al tempo stesso c'è un problema di dove collocare l'Unione Sovietica in questo quadro, e quindi preoccupazioni rispetto al ruolo che l'Unione Sovietica avrà dopo la fine della guerra, perché nei grandi appunto circoli si riflette su questo tema. C'è timore su come si comporteranno i movimenti comunisti, i movimenti partigiani comunisti, e quindi c'è da un lato, come posso dire, la consapevolezza che con l'entrata, diciamo, in campo dei partigiani comunisti le resistenze cominciano ad avere una capacità militare, politica molto più forte. Al tempo stesso c'è il timore di tenere sotto controllo questa situazione. Su questo faccio solo una precisazione. Noi siamo abituati, siccome noi siamo nati, cresciuti, posso credo parlare per tutti, conoscendo la resistenza italiana, che è l'ultima a nascere in Europa, quindi dal diciamo autunno del 43, primi del 44, non ha conosciuto le contraddizioni che hanno vissuto le altre resistenze europee, soprattutto rispetto al ruolo dei comunisti, perché fino all'invasione dell'Unione Sovietica diversi partiti comunisti, in generale poi singoli militanti avevano posizioni anche diverse, aderivano a questa visione della guerra imperialista e quindi non mettevano un particolare impegno nella lotta antifascista, cioè ci vuole appunto l'invasione dell'Unione Sovietica per smuovere, come dire, le acque. Cosa che noi in Italia non abbiamo visto, perché quando arriva la resistenza in Italia questo problema è già stato, come posso dire, liquidato, è stato già risolto, è stato già digerito. Ad esempio in Francia, come vi dirò tra pochi minuti, questo problema sarà pesantissimo, cioè il Partito Comunista Francese insomma avrà dei grossi problemi da questo punto di vista. La terza fase è quella diciamo della radicalizzazione del conflitto, che avviene a partire dalla fine del 42, inizio del 43, dove, come dire, si esasperano le forme di repressione in tutta Europa, le forme di repressione dell'opposizione, dove viene deciso e avviato lo sterminio degli ebrei, che viene deciso nella conferenza di Wannsee alla fine del 1942, e aumenta enormemente la richiesta di manodopera da poter utilizzare in Germania, per cui in tutta Europa si va alla caccia di operai da portare in Germania per sostituire i maschi tedeschi che sono tutti a fare la guerra. Con la sconfitta di Stalingrado nel febbraio del 1943 si comincia anche a intravedere la fine della guerra, la possibilità che la guerra finisca con una vittoria degli alleati, e questo stimola ulteriormente i movimenti partigiani, ma ormai è lo scontro ormai, diciamo, un livello di violenza, raggiunge un livello di violenza enorme, con un prezzo che è pagato dalle popolazioni enorme, e in alcuni paesi si può parlare di guerra civile, perché veramente si raggiunge uno scontro tra partigiani e collaborazionisti davvero terribili, ma non mancano, come vedremo, anche dei conflitti intrapartigiani, ma a dei livelli veramente, in alcuni paesi che raggiungono dei livelli veramente enormi. Detto questo, come inquadratura generale, ho parlato 10 minuti, quarto d'ora. Allora, vedi, quello che ti dicevo ieri sera, una conferenza di 4 ore, 4 ore e mezza la mia. Questa... Per me va bene. No, solo io che non ci arrivo. Ecco, arrivato a questo punto vorrei affrontare una questione, prima di appunto raccontarvi brevemente alcune vicende europee, una questione fondamentale secondo me, che è quella della legittimità della resistenza, che è un tema che attraversa tutte le resistenze europee, ovviamente, che è minore in quei paesi, come vedremo, dove rimangono in piedi apparati statali che, come dire, danno legittimità ai movimenti partigiani. Ma laddove questo non avviene, come in Italia, il problema della legittimità della resistenza si pone. Allora, il dato da cui partire, scusate, un piccolo approfondimento, ma secondo me è utile per questi nostri discorsi. Il dato da cui partire sono le contraddizioni e i limiti del diritto internazionale che era stato fissato, rispetto al diritto internazionale che fa centro sul tema del trattamento dei prigionieri di guerra, perché è da lì che è lì la questione. Noi combattiamo, io prendo i tuoi soldati, tu prendi i miei, come li trattiamo? E lì viene stabilito la regola. Ecco, con la Convenzione dell'AIA del 1907 era stato, che viene aggiornata con altre quattro convenzioni, era stata fissata la possibilità che esistessero solo dei corpi di volontari aggregati agli eserciti regolari. E quindi si stabiliva che venivano considerati, nel caso di cattura, prigionieri di guerra, quindi trattati come prigionieri di guerra, quindi non uccisi, dovevano esserci quattro condizioni. Che avessero alla loro testa una persona responsabile, che avessero un segno distintivo fisso e riconoscibile a distanza, che portassero le armi in modo esplicito, apertamente, e di conformarsi nelle loro operazioni alle leggi e agli usi di guerra. È evidente che questa tipizzazione del volontario aggregato all'esercito regolare, con l'occupazione nazista dell'Europa, salta per aria, perché non ci sono più gli eserciti regolari a cui fare riferimento, e quindi si pone un problema molto serio, perché sono movimenti appunto resistenziali di tipo nuovo, che sono creati in paesi dove non esiste più un esercito, dove esistono milizie di partito, dove esistono conflitti civili per l'adesione appunto della popolazione, parte della popolazione a uno degli alleati. In ogni caso, i movimenti partigiani sono riconosciuti dagli alleati, che li sostengono con mezzi e risorse, con strutture, eccetera, eccetera. Però, appunto, le convenzioni internazionali, come dire, sono ferme a un modello che è quello della Prima Guerra Mondiale, per intenderci, cioè il modello di eserciti regolari che combattono tra di loro e che in modo occasionale possono avere dei reparti di civili che vengono inquadrati, che hanno degli ufficiali al loro capo, che hanno delle divise, che hanno, voi capite, che fare la guerriglia con dei segni distintivi voleva dire che la guerriglia non sarebbe esistita, quindi, come dire, è abbastanza. Però di fatto, basandosi su queste norme, i tedeschi continueranno a considerare combattenti illegittimi partigiani fino alla fine del 1944. In realtà tra il 44 e il 45, insomma, cominciano anche loro a cambiare idea, però appunto fino quasi alla fine della guerra considerano illegittimi. Considerate che questa questione verrà risolta solo nella Convenzione di Ginevra del 49, perché viene stabilito, ve lo leggo, che nei conflitti armati in cui a causa della natura dell'ostilità, come la resistenza, un combattente armato non può distinguersi dalla popolazione civile, egli conserverà lo statuto di combattente a condizione che in tali situazioni porti le armi apertamente durante lo scontro armato o quando in vista dell'avversario. Cioè, sostanzialmente, viene detto che non deve avere segni distintivi, che non deve essere inquadrato, eccetera, eccetera. Disposizione che viene contestata da alcuni paesi, tipo la Francia, perché hanno il problema dei loro, delle loro colonie, cioè hanno il timore che questo tipo di, come dire, legittimi appunto gli algerini, legittimi tutte le loro... questo per dire com'è complicato, come dire, anche il percorso di riconoscimento della guerriglia. Bene, detto questo, abbiamo un paio d'ore per parlare, no scusate adesso, proviamo un po' a, io ho provato a fare un po', adesso loro sono preoccupatissimi perché vedono una pila di fogli, ma poi vado alla sintesi, non è che, allora ho provato a fare delle tipologie, cioè più o meno per cercare di dare un po' un'idea, almeno generica insomma. Allora, ci sono un paio di paesi dove la resistenza nasce per combattere, per evitare la dissoluzione della propria nazione, la scomparsa della propria nazione. Sono la Polonia e la Cecoslovacchia. Nel caso della Cecoslovacchia nasce, viene, il paese viene separato in due, nasce appunto il protettorato di Boemia e Moravia, è uno stato, tra virgolette, fascista della Slovacchia, e attraverso il governo in esilio nasce, comunque collegato a un governo in esilio, nasce un movimento di resistenza abbastanza importante che compie quella che è stata una delle azioni più clamorose della resistenza europea, cioè l'uccisione di Heydrich, che era il capo della direzione generale dell'SS, nonché appunto capo del protettorato di Boemia e Moravia, e che controlla, e che è lui che tiene la conferenza di Wannsee, che viene non nella fine del 42 ma agli inizi, nel quale viene decisa la soluzione finale. Quindi era, come dire, uno proprio delle figure più importanti, sono stati fatti film su questo episodio, perché poi collegato c'è anche la rappresaglia che viene compiuta dai nazisti, che viene distrutto un intero villaggio da dove loro pensavano fosse partito. L'altro paese che deve confrontarsi con questa situazione, e qui entriamo già in un campo più complicato, è appunto la Polonia. Perché la Polonia? Perché la Polonia, quando viene occupata, subisce una doppia aggressione, cioè dai nazisti da una parte e dall'Unione Sovietica dall'altra, cioè il paese viene diviso in due basi, il patto russo-tedesco del 39, il patto di non aggressione. La Russia, l'Unione Sovietica occupa alcuni territori che rivendicava da tempo, e mentre i nazisti occupano il resto della Polonia. E ci sono anche aspetti problematici, cioè tipo la collaborazione tra le due polizie segrete per scambiarsi, diciamo, gli ufficiali che venivano catturati, per scambiarseli poi eventualmente per eliminarli. Quindi questo è un aspetto, diciamo, quando si fa un quadro della resistenza europea, come vi dicevo prima, ci si deve confrontare anche con delle situazioni che per noi italiani sono abbastanza problematiche, insomma. Non... Il problema è che proprio per questo motivo nascono dei movimenti di resistenza, diciamo così, legittimisti, dei movimenti di resistenza moderati, chiamiamoli così, l'Armata Nazionale, e nasce anche un movimento di resistenza invece comunista, che si confrontano, in alcuni casi si scontrano, e quindi insomma sempre con però una situazione, come posso dire, di pressione che viene soprattutto a partire dal 43, di pressione che viene dal fatto che l'Armata Rossa lentamente sta avanzando E quindi insomma è una resistenza, come posso dire, attraversata costantemente di tensioni. E, ad esempio, quando c'è l'insurrezione nel ghetto ebraico, l'armata Krakiova, cioè l'armata dei partigiani, diciamo, nazionalisti, diciamo così, non interviene. Quando c'è l'insurrezione di Varsavia, dei partigiani dell'armata, appunto, nazionalista, l'armata rossa, che è di là dal fiume, non interviene e quindi lascia che in qualche modo abbandona i partigiani. E poi quando c'è la scoperta del massacro di Katyn, dove la polizia segreta sovietica uccide oltre 20.000 ufficiali polacchi, i rapporti tra le varie forze politiche sono ovviamente ai minimi termini. Quindi l'esperienza della Polonia, come vedete, è un'esperienza molto complicata. Adesso io ve l'ho tagliata con l'accetta, perché ovviamente non c'è il tempo per entrare nel dettaglio, però insomma è importante avere la consapevolezza che è uno di quei casi veramente è uno dei casi più complicati. Ci sono chiaramente questi paesi che saranno poi sotto l'influenza sovietica, o che comunque durante la Seconda Guerra Mondiale anche gli Stati Uniti, anche l'Inghilterra considerano sotto l'influenza sovietica, che avranno appunto queste ambiguità, questi atteggiamenti. Bulgaria, Romania, Ungheria, tra l'altro sono interessanti questi paesi, perché sono tutti paesi che arrivano alla guerra con dei regimi autoritari. Tutti questi paesi entrano in guerra alleati della Germania e poi si sganciano dalla Germania quando capiscono che sta andando male e tentano di allearsi o con gli alleati o con l'Unione Sovietica, per cui anche le resistenze interne sono resistenze che si devono confrontare appunto con situazioni molto movimentate da questo punto di vista, e anche qui con dei movimenti collaborazionisti, le croci uncinate, eccetera, eccetera, che sono movimenti estremamente violenti, che danno la caccia agli ebrei, che danno la caccia ai comunisti, che danno la caccia ai diversi, e poi ci sono sempre questioni etniche, ci sono sempre questioni di confini. Cioè dovete considerare che soprattutto nell'est Europa le resistenze si devono sempre confrontare appunto con una realtà multietnica e con dei confini fissati dopo la caduta dell'impero austro-ungarico, con dei confini che sono estremamente complicati, per cui tutti hanno delle rivendicazioni per conquistare dei nuovi territori, eccetera, eccetera. Un altro caso, tengo d'occhio l'ora per non... Un altro caso specifico, che consentitemi di spendere due parole in più, è la Francia, perché la Francia, se da un lato, come dire, la resistenza francese vuole, come dire, nasce per ripristinare la democrazia che c'era prima dell'occupazione nazista, dall'altro il fatto che nasca nel giro di pochissimo un nuovo Stato, questo Stato francese, che, come posso dire, propugna dei valori, un ritorno ai valori tradizionalisti della Francia, cioè ai valori precedenti alla rivoluzione, alla rivoluzione francese, precedenti all'affermazione appunto di libertà, egalité, fraternité, insomma l'idea di una Francia democratica e così via. Ecco, anche la Francia si deve quindi confrontare con delle problematiche, come dire, impegnative da questo punto di vista, e ne fanno un po' un caso a parte. Devo dire che in Francia, vi accennavo prima al problema del Partito Comunista Francese, perché in Francia effettivamente, dove esisteva un forte risentimento verso l'Unione Sovietica, che risaliva alla Prima Guerra Mondiale, perché quando, a seguito della rivoluzione russa, la Russia era uscita dal conflitto e quindi aveva in qualche modo, i francesi consideravano questa uscita come un tradimento rispetto al fatto che poi l'intero peso della guerra era ricaduto sul fronte occidentale. Quindi diciamo c'era un forte risentimento verso l'Unione Sovietica, verso i comunisti, alimentato anche nel corso degli anni 30 dalla nascita dei movimenti fascisti, soprattutto nel 34 si affermano, francesi scoprono che c'è una presenza consistente, diciamo, di adesioni verso movimenti antifascisti, xenofobi e razzisti e antisemiti. Poi appunto la Francia, lo vediamo anche oggi ogni tanto, viene fuori, insomma sono quelle radici che poi non scompaiono mai. Ecco, la firma del patto tedesco-sovietico dell'agosto del 39 in Francia ha un impatto fortissimo. Il Partito Comunista viene messo fuori legge e i suoi militanti vengono perseguitati, 18.000 militanti comunisti arrestati, quindi voglio dire, nella democratica Francia questa vicenda ha un peso fortissimo e il Partito Comunista mantiene appunto fino all'invasione dell'Unione Sovietica un atteggiamento ambiguo, mentre i militanti sono orientati verso la resistenza, soprattutto i leader, come dire, mantengono un atteggiamento ambiguo da questo punto di vista, e questo avrà un po' di conseguenze perché nella prima fase, come dire, la resistenza è De Gaulle, la resistenza è una resistenza, diciamo, moderata, è una resistenza che appunto punta a ripristinare solo lo status quo, quello che c'era prima che avvenisse. Però appunto questo non è possibile perché in Francia era nato questo nuovo Stato francese ed era stata attuata una rivoluzione nazionale per cambiare appunto tutti i valori fondamentali, e quindi viene appunto al trittico libertà, uguaglianza e fraternità, viene contrapposto Dio, patria, lavoro, famiglia, che sono appunto gli elementi di una visione organicistica della società. Quindi in sostanza si passa dai diritti di cittadinanza intesi come diritti dell'uomo e della donna a prescindere dalla sua provenienza, ai diritti di comunità, intesa come una realtà immobile stanziale. Forse vi dice qualcosa questo, cioè siamo sempre lì, insomma, tra il diritto appunto di una comunità che è vista come un qualcosa di immobile e invece il diritto dell'uomo o della donna, ovunque esso sia, ovunque vada, ovunque venga. Quindi Vichy, cioè Pétain, che era questo eroe della Prima Guerra Mondiale, che attira verso di sé appunto tutta questa adesione, mette in atto una forte collaborazione con il sistema di potere nazista. Voi sapete che la Francia viene divisa in due, in realtà sono sei zone di occupazione diversa, ma adesso non stiamo a perdere, viene divisa sostanzialmente in due, più una piccola porzione occupata dagli italiani, però la cosa che a molti sfugge, ad esempio a me era sfuggita, ci ho messo del tempo per capirlo, perché c'era qualcosa che non mi tornava, è che le autorità dello Stato di Vichy, soprattutto la polizia francese, opera su tutto il territorio nazionale. Cioè la Francia è divisa in due, la parte, diciamo, nord, centro-nord, occupata direttamente dai nazisti, perché così prendono il controllo delle fabbriche, e il centro-sud invece è riconosciuto con il regime appunto di Vichy e così via. Ma in realtà la polizia francese opera su tutto il territorio nazionale. E ad esempio le retate degli ebrei le fanno le polizie francesi, non le fanno i nazisti. Quindi c'è un problema, la Francia ci ha messo molto tempo a elaborare questo problema del fatto che sono stati loro a fare le deportazioni. Non solo, sono i francesi, siccome i tedeschi avevano ordinato di deportare gli adulti e i francesi si trovano a dover gestire migliaia di bambini che sono di fatto orfani, la polizia, sono i francesi che chiedono ai nazisti di deportare anche i bambini. Ma i francesi sono dei maestri in questo. Voi considerate che noi con molta fatica abbiamo discusso del tema della guerra civile, loro non ci riescono e parlano di guerra franco-francese. Cioè, in alcuni dibattiti hanno trovato questa definizione, perché ad esempio in Libia si sono scontrati le truppe fedeli a Vichy con truppe fedeli a De Gaulle, mi pare lì adesso, un'amnesia. Comunque ci sono state delle situazioni di conflitto tra forze francesi e alcuni, diciamo, personaggi hanno utilizzato questa terminologia che è più leggera, diciamo, rispetto a utilizzare il termine guerra civile. Ecco, la cosa interessante è che in Francia noi conosciamo l'appello di De Gaulle, ma di fatto la resistenza francese, intesa come guerriglia, nasce soprattutto ad opera di partigiani, tra virgolette, stranieri, armeni, polacchi, spagnoli, italiani, ebrei, provenienti da questi paesi. Sono loro che danno, soprattutto nelle organizzazioni militari del Partito Comunista francese, sono loro che danno vita alla lotta armata. Perché effettivamente i francesi vivono una situazione di ambiguità nel rapporto con Vichy, nel rapporto con le autorità statali, nel rapporto... E quindi, come dire, non c'è neanche da stupirsi che sia proprio da quelli che vengono più duramente perseguitati che parte la resistenza. E famoso è il gruppo Manouchian, che dal nome del poeta armeno che guidava questo gruppo, che era inquadrato nelle forze partigiane comuniste, e che viene catturato, vengono fucilati, dentro c'erano anche due o tre italiani, e appunto viene fatta questa affiche rouge, viene chiamata, questo manifesto che viene diffuso in tutta la Francia, dove viene detto a uso propagandistico: ecco, guardate i partigiani chi sono tutti stranieri, quindi voi francesi dovete capire che non sono i francesi che stanno lottando contro la Germania, ma sono gli stranieri. Cioè, quindi c'è il tentativo di rappresentare la resistenza come un fatto che in effetti, per alcuni aspetti, appunto iniziale, è vero, mentre ad esempio nella fase di inizio è molto un'attività di propaganda, di informazione, di raccolta di informazioni. Cioè, ci vuole molti mesi prima che si cominci a vedere invece un discorso di azione militare. Soprattutto la svolta sarà, da un lato, quando la deportazione degli ebrei non riguarderà solo gli ebrei stranieri, ma cominceranno ad essere presi anche gli ebrei francesi, e dall'altro l'introduzione del servizio di lavoro obbligatorio, e quindi che produce, come è successo in Italia, peraltro verso con i bandi di leva fascisti, cioè il fatto che molti giovani devono decidere se aderire al lavoro obbligatorio e andare in Germania, o se nascondersi, o se eventualmente aderire alla resistenza. Salto quello che mi sembra interessante, diciamo, dire è che appunto nel caso della Francia, come dire, mentre in Italia appunto c'è una sorta di compressione dei tempi, per cui la resistenza velocemente diventa adulta, cioè passa tutte le fasi dell'adolescenza e diventa adulta nel giro di pochi mesi, poche settimane, nel caso della Francia davvero i tempi sono maggiormente dilatati. Se consideriamo che ad esempio un organismo centrale di coordinamento della resistenza viene creato nel maggio del 1943, quindi la Francia è stata occupata nel 40, e quindi ci vogliono quasi 3 anni perché si arrivi al Comitato di Liberazione Nazionale, quando noi appunto il 9 settembre ce l'abbiamo già. Cioè, per dire che sono tempi maggiormente dilatati. E la cosa interessante è che, diciamo, con lo sbarco in Normandia, che presenta, secondo me, è molto interessante, perché forse possiamo considerare, parlando dei partigiani, tralasciando tutti gli altri aspetti, con lo sbarco in Normandia gli alleati scoprono finalmente, almeno per quello che riguarda, diciamo, l'Europa occidentale, scoprono che la resistenza ha una capacità militare che loro non consideravano possibile. Effettivamente la capacità che hanno i partigiani francesi di bloccare paralizzare la rete ferroviaria, sabotare le installazioni elettriche e telefoniche, fare azioni di guerriglia per rallentare il movimento delle truppe nemiche, diciamo colpisce i comandi alleati. E forse quello è il momento che almeno si rendono conto che anche nell'Europa occidentale, non solo nei Balcani, come dire, la resistenza ha raggiunto un livello di organizzazione, di capacità di azione davvero. Per quello che vi dicevo prima, che anche gli alleati scoprono man mano poi la realtà della resistenza. Ci sono, ad esempio, rispetto a come è stata raccontata la resistenza alla Seconda Guerra Mondiale, ci sono diciamo delle narrazioni che tendono a nascondere i problemi, i conflitti, è una cosa ovviamente naturale. In tutti i paesi europei è stato raccontato che la resistenza è stato un fatto di popolo, che i collaborazionisti non erano quattro gatti, che tutto è stato magnifiche sorti progressive, cioè, poi in realtà si va a vedere, sono state cose complicate. Nel caso del sbarco in Normandia, ad esempio, una cosa che non è stata mai raccontata è la violenza dei soldati inglesi e americani nei confronti dei francesi e soprattutto delle donne francesi. Ci sono centinaia di stupri che avvengono soprattutto da parte di soldati americani, che partono dal presupposto che la donna francese era una donna libera, era una donna disponibile, perché i film erano tutti così, eccetera, eccetera. E quindi quando arrivano, sbarcano, ci sono appunto casi, ma centinaia di casi di violenza, vandalismi, stupri, omicidi, in alcuni casi anche con fucilazioni e impiccagioni dei soldati responsabili. Quindi questo aspetto è stato raccontato da uno storico francese, Vivorca, in un libro sullo sbarco in Normandia, credo, a meno memoria, sia stato uno dei primi che ha avuto, come dire, il coraggio anche di mettere sul tavolo non solo gli aspetti positivi dello sbarco, ma anche queste problematiche. Noi la conosciamo per l'Italia, per il nostro verso, il comportamento delle truppe marocchine sotto comando francese, che hanno fatto gli stupri di massa nel Basso Lazio, le famose marocchinate, che sono un altro caso di, diciamo, dove a quel punto il possesso diventa il possesso del corpo delle donne. Questo è un altro aspetto che volevo sottolineare, così per alleggerire un po', e poi vado oltre. Si apre un dibattito molto interessante quando si deve liberare Parigi, perché c'è un confronto tra De Gaulle e i comandi alleati su chi deve entrare per primo, perché De Gaulle, che vede il dopo, dice no, Parigi deve essere liberata dai francesi. Il problema qual è? Che le truppe che aveva a disposizione erano truppe di colore, cioè il corpo di, cioè i francesi che erano a terra erano tutti di colore. Quindi dice no, che io mica posso liberare la Francia, posso liberare Parigi con delle truppe di colore. Per cui viene deciso di utilizzare la divisione corazzata, insomma, Leclerc, e quindi sono loro a entrare a Parigi. Però cosa succede? Che nella divisione corazzata Leclerc erano presenti degli spagnoli che venivano dalla guerra di Spagna, della CNT, cioè anarchici, per cui i primi francesi a entrare a Parigi sono in realtà degli spagnoli anarchici. E voi, se vedete le foto dell'Arco di Trionfo a Parigi, sono le camionette che entrano, hanno scritto Teruel, Barcellona, sono tutti combattenti della guerra di Spagna, e questo è un paradosso della storia, insomma, perché dietro aveva questa discussione su chi doveva liberare Parigi. Ma è interessante perché ci dice che al di là del racconto retorico e così via, c'erano delle dinamiche ovviamente di una certa complessità. Bene, siete sopravvissuti fino a questo momento? Posso... No, scusate, ma... No, ma non c'è problema. Cioè, era solo perché prendo anche un attimo fiato. Ecco, ho accennato prima ai Balcani. Qui invece siamo di fronte a una situazione molto diversa, perché i Balcani sono una realtà dove sono presenti profonde tensioni politiche, etniche e religiose, e quindi in qualche modo l'occupazione nazista e fascista, perché in questo caso a occupare i Balcani ci sono anche gli italiani, e, diciamo, viene messo in discussione proprio il ruolo delle classi dirigenti, cioè emerge un bisogno di trasformazione completa di questi paesi, mentre in altri paesi, come abbiamo visto finora e come vedremo dopo, l'obiettivo è ripristinare la situazione precedente, cioè ritornare appunto a prima dell'occupazione nazista. In questo caso invece il desiderio diffuso è quello di non di tornare indietro, ma di andare avanti, di cambiare, di costruire una nuova società. E quindi c'è un profondo bisogno, si emerge un profondo bisogno di trasformazione politico e sociale degli assetti istituzionali e politici, ma c'è anche il fatto, come vedremo, che questo dà luogo a delle guerre civili molto violente. Jugoslavia è forse il caso più emblematico, perché, ma insomma, è un caso emblematico perché si formano sostanzialmente due eserciti di liberazione. Uno sono i cetnici di Mihailovic, serbi, e gli altri sono gruppi partigiani comunisti guidati da Tito. Quindi c'è una polarizzazione, diciamo, dal punto di vista dell'organizzazione resistenziale. Mihailovic è per lungo tempo riconosciuto dagli alleati, compresi i sovietici, cioè che riconoscono in lui e nei cetnici l'esercito di liberazione della Jugoslavia. Ci sono anche tentativi di diciamo convincere Tito a sottostare appunto a Mihailovic, ma Tito si rifiuta e in realtà col tempo soprattutto gli inglesi maturano la convinzione che in realtà vada sostenuto il movimento di liberazione guidato da Tito, anche se sono comunisti, perché in effetti c'è cetnici, per questa, diciamo, tensioni che si determinano, cominciano a fare accordi con gli occupanti in funzione anticomunista, cioè sostanzialmente, come posso dire, una parte del movimento cetnico comincia a dire: ma il vero nemico non sono i nazisti, ma sono i comunisti. E quindi iniziano dei conflitti interni alla resistenza molto pesanti, tant'è che quando c'è la famosa battaglia del Retva, che hanno fatto i film meravigliosi, il ponte che viene fatto saltare prima che arrivino, eccetera, eccetera, i cetnici collaborano con i nazisti a dare la caccia ai partigiani comunisti. Mentre gli americani continuano a sostenere, perché appunto, come dicevo all'inizio, non sempre andavano via allineati, continuano a sostenere fino all'ultimo Mihailovic, Churchill capisce che se vuole che si vinca la guerra lì, bisogna sostenere l'esercito di liberazione guidato da Tito. E quindi là l'Inghilterra sostiene fortemente appunto Tito. Sovietici invece così così, perché Stalin non amava molto Tito già durante poi dopo non si ameranno più, però già allora, insomma, temeva che questo socialismo nazionale sostenuto da Tito, questo socialismo con forte impronta nazionalista, insomma, di ricostruire una Jugoslavia dei popoli, ma con una forte impronta nazionale, temeva che potesse diventare un polo di attrazione, un secondo polo di attrazione rispetto appunto all'Unione Sovietica. E non c'era andato neanche molto lontano per certi aspetti. E quindi da quel momento appunto l'esercito di liberazione jugoslavo è sostenuto soprattutto dagli inglesi. Devo dire che l'esperienza partigiana jugoslava a livello di massa era un'esperienza straordinaria. Vi do solo un elemento: la sesta offensiva nazista contro l'esercito partigiano di Tito mobilita 650.000 soldati. Cioè, questo vi dà solo l'idea di qual è la dimensione dello scontro. In Italia, nelle battaglie più grosse, tipo non so, la battaglia di Montefiorino, saranno stati 3-4.000 soldati tedeschi che vengono mandati a sconfiggere la Repubblica Partigiana. Cioè, questo vi dà, come dire, la dimensione straordinaria, anche della, anche l'entità straordinaria della resistenza jugoslava. Il problema è che conflitti etnici da una parte, la violenza estrema dell'occupazione nazista e i conflitti interni, le guerre civili che si combattono, ha poi una conseguenza terribile anche dopo la fine della guerra, con l'eliminazione di decine di migliaia di guardie bianche slovene, degli ustascia croati, dei cetnici serbi e anche di tutti i possibili oppositori al nuovo regime comunista jugoslavo, cosa che abbiamo subito anche noi italiani, perché dentro tutta la vicenda del confine orientale sono finiti anche antifascisti partigiani italiani che non erano favorevoli a questo nuovo sistema politico e quindi sono stati eliminati. Ma questo avviene, diciamo, all'interno di una sorta di resa dei conti finale che aveva a monte appunto dei conflitti di una violenza terrificante. Insomma, voi considerate solo che del milione di morti, diciamo così, partigiani e civili, 700.000 sono stati morti perché si sono uccisi tra di loro, per così dire. Cioè, sono più i partigiani che sono morti per mano di altri partigiani che non quelli morti combattendo contro, per dire l'entità di uno scontro in questa realtà frastagliata come poteva essere appunto la Jugoslavia. Una cosa per certi versi analoga, ma per altri molto diverso, è quella della Grecia. La Grecia alla vigilia della guerra è uno stato totalitario che simpatizza per il fascismo, ma nonostante questo il Duce decide di invadere la Grecia senza riuscirci, ma appunto viene aiutato dai tedeschi che intervengono appunto a supporto degli italiani occupando la Grecia. Anche in questo caso abbiamo la nascita sostanzialmente di diversi eserciti di liberazione, e anche se prevale totalmente l'esercito di liberazione comunista, sostenuto dal Partito Comunista, non solo, ma prevalentemente dal Partito Comunista. E il problema è che gli inglesi, soprattutto gli inglesi, a differenza della Jugoslavia, non intendono sostenere i partigiani comunisti, sono per ripristinare diciamo, la monarchia, hanno, come dire, una strategia diversa per la Grecia, che è funzionale a una strategia complessiva della Gran Bretagna rispetto al bacino del Mediterraneo, per cui gli inglesi sono contrari, come dire, allo sviluppo, non sostengono lo sviluppo del movimento partigiano. Un movimento partigiano comunista che vive delle esperienze anche straordinarie di liberazione di porzioni di territorio dove si instaurano, come dire, delle repubbliche o delle zone libere, hanno, come dire, una capacità anche sociale molto importante, pratiche di autogestione, coinvolgimento dei giovani e delle donne, cioè in qualche modo favoriscono anche l'avvicinamento della popolazione alla politica, fino a quel momento riservata solo all'elite e soprattutto sostanzialmente ad Atene, insomma, in qualche modo. Il problema è che quando a seguito di un'insurrezione nell'ottobre del 44 i tedeschi si ritirano dalla Grecia, sbarca un corpo di spedizione inglese che ha come obiettivo prioritario disarmare i partigiani comunisti e solo i partigiani comunisti, cioè gli altri partigiani invece non sono coinvolti. Questo produce un conflitto militare che durerà, che, come posso dire, da un lato preoccuperà i movimenti partigiani di tutta Europa, anche in Italia ad esempio si discuterà, cioè qual è il futuro, che se noi prendiamo, siamo troppo forti, poi ci attaccano dopo la fine della guerra, cioè ci sono delle preoccupazioni forti anche tra i partigiani, in particolare tra i partigiani comunisti, se succederà come in Grecia. Sta di fatto che questo conflitto non termina fino al 1949, cioè una sorta di guerra civile, perché si ricostituisce l'esercito di liberazione, però che combatte contro gli inglesi e poi gli americani, e questo conflitto termina nel 1949, quindi capite che la situazione greca è una situazione complicata. E salterei l'Albania, perché insomma l'Albania in questo ragionamento, come dire, conosce un movimento partigiano, ma mi sembra che, da quanto è che parlo? Posso andare avanti lo stesso? No, io sono sempre preoccupatissimo di non rompere troppo le scuole. Allora te lo devo dire, il professor Dominioni ci ha fatto una lezione di 4 ore e mezza. Vabbè, allora prendo gli altri. Noi siamo disfatti. No, va bene, va bene. Fai così, la tiriamo più lungo di qua. Esatto, no, 4 ore. Allora finisco, vado avanti. Un altro caso, diciamo, un'altra tipologia è quello dei paesi del nord Europa, Olanda, Belgio, Norvegia, Danimarca, dove la resistenza è, come vi dicevo prima, soprattutto si manifesta come fedeltà alle istituzioni preesistenti all'occupazione nazista. E questo, anche per abbreviare, diciamo, dipende appunto, come vi dicevo all'inizio, da come si comportano i nazisti, cioè per paesi ad esempio come la Danimarca o la Norvegia, che sono considerati, come dire, popoli etnicamente puri, e quindi, come posso dire, l'occupazione è tra virgolette un'occupazione leggera. Rispetto ad altri paesi invece, dove appunto, come ad esempio l'Est Europa, dove l'idea di rendere popoli slavi schiavi è semplice manodopera da utilizzare. Ecco, in qualche modo sono abbastanza simili le tipologie in questi paesi, insomma si formano, i governi vanno, fuggono, e i re o le regine fuggono in Inghilterra, oppure si rimangono, si dichiarano prigionieri politici. Comunque, come dire, c'è un elemento di continuità delle istituzioni che viene garantito, quindi è una resistenza che, come posso dire, è riconosciuta in qualche modo istituzionalmente, ma in questi paesi, proprio per quelle affinità che dicevo prima, ci sono dei movimenti collaborazionisti molto forti, che spesso vanno a combattere in Unione Sovietica, cioè di supporto agli eserciti. Ad esempio in Olanda si forma la legione dei combattenti contro il comunismo, quindi è molto chiaro il loro obiettivo, e vanno a combattere appunto in Unione Sovietica. In altri casi, come ad esempio nel Belgio, l'occupazione fa emergere le tensioni tra le diverse componenti della società, emerge il nazionalismo fiammingo separatista, oppure appunto il partito rexista che sogna di creare una grande Borgogna con anche pezzi della Francia, cioè emergono quei movimenti, come dire, che mettono sempre in discussione, come dire, gli assetti che erano stati definiti, con l'idea di creare nazioni o paesi etnicamente omogenei, che poi in fondo succede dopo la Seconda Guerra Mondiale, però l'obiettivo è quello di eliminare le minoranze interne, avere dei paesi in qualche modo appunto etnicamente puri. Il caso del Belgio, come vi dicevo, ha una diffusione enorme la stampa clandestina, 675 testate, quindi c'è un forte lavoro considerato, insomma, la grandezza del merito. Ma mi piace sottolineare che a merito dei partigiani del Belgio, che sono gli unici che attaccano un convoglio nazista di ebrei che erano diretti ad Auschwitz e liberano 231 ebrei che erano destinati in campi di concentramento. Qui si dovrebbe aprire una discussione sul rapporto tra resistenza e ebrei, ma non c'è ovviamente il tempo, però poi casomai se ci sono delle domande posso... Però insomma, va a loro merito di aver fatto una cosa che nessun altro ha fatto. E, venendo agli ultimi due o tre casi, e poi vado alle conclusioni, come si diceva una volta, mi avvio alle conclusioni, poi si parlava un'altra ora e mezza, e un'altra tipologia che possiamo prendere in esame è quella della resistenza sovietica. Perché? Perché a differenza di tutte le altre resistenze, la resistenza dei sovietici nei territori occupati dai nazisti è una resistenza organizzata, sostenuta e guidata dall'Armata Rossa. Quindi è una resistenza che paga dei prezzi durissimi, perché non c'è pietà nella guerra dell'Est. Però è una resistenza che chiaramente può contare su un supporto che nessun'altra resistenza ha avuto in Europa. L'altro aspetto rilevante della situazione dell'Unione Sovietica è che il comportamento delle popolazioni nei territori invasi dai nazisti è un comportamento problematico, nel senso, in alcuni casi, perché i nazisti fanno appello alle nazionalità contro lo Stato giudo-sovietico, quindi ebrei, comunisti, una cosa sola, quindi che va eliminata, e soprattutto mandano questi messaggi ai contadini: noi siamo venuti a liberarvi, potete tornare, diventare proprietari delle vostre terre che sono state collettivizzate dai comunisti. Quindi questo messaggio in alcuni casi, soprattutto in Ucraina e in alcuni paesi caucasici, ha un effetto, tant'è che si formano dei corpi militari collaborazionisti che partecipano alla guerra con i nazisti, e poi li abbiamo conosciuti anche noi, i famosi mongoli, erano questi reparti di collaborazionisti, questi paesi che venivano inquadrati nell'esercito nazista, e alcuni sono arrivati anche in Italia con tutto quello che hanno fatto nel nostro paese. Quindi per l'Unione Sovietica, secondo me, sono questi due elementi, mi sembra, interessanti. Concludo con i paesi che devono in qualche modo riconquistare un'identità nazionale che superi l'esperienza del nazismo e del fascismo, cioè Italia, Germania e Austria. Ovviamente non parlo dell'Italia perché è già stato un tema, però insomma due parole le vorrei dire. Sulla Germania, è chiaro che la Germania non conosce una resistenza come la intendiamo per tutti gli altri paesi. Ormai la narrazione quasi unica è il complotto contro Hitler del luglio del 1944, quindi dell'alta borghesia e degli alti ufficiali nazisti che si vogliono liberare di Hitler, di questo pazzo, e fare appunto venire a patti, eccetera, eccetera. In realtà ci sono state diverse reti antifasciste, comunque, però quello che va considerato nel caso della Germania è l'efficacia del controllo sociale e della capacità di repressione, la violenza della repressione nazista, che per sostanzialmente dal 1933 porta quasi 1 milione di tedeschi nei campi di concentramento. Cioè, quando viene aperto Dachau nel 1933 non è destinato agli ebrei, è destinato agli oppositori politici, e quindi quando scoppia la guerra la stragrande maggioranza dei potenziali oppositori del nazismo sono finiti in campo di concentramento, sono individuati, sono controllati, sono stati uccisi, sono perseguitati. Quindi insomma è chiaro che non ci si poteva aspettare. Quindi i gruppi che si formano sono gruppi molto politicizzati, molto ristretti, molto politicizzati. I gruppi più famosi sono la Rosa Bianca, sapete, gli studenti dell'Università di Monaco che vengono poi ghigliottinati, o l'Orchestra Rossa, un'altra organizzazione più di ispirazione comunista e socialdemocratica. Comunque sono emersi, soprattutto nelle ricerche degli ultimi decenni, diversi casi anche di aiuto agli ebrei perseguitati e anche i casi di diserzione. In realtà questo tema, che è tabù in Germania, nell'esercito tedesco, sono, ma davvero, decine di migliaia in tutta Europa, soldati tedeschi che disertano e passano alla resistenza. E qui non è un fenomeno isolato. Ecco, quindi, come dire, non si può parlare di resistenza come negli altri paesi, però è importante sottolineare appunto questi aspetti. Per quanto riguarda l'Austria, è abbastanza simile, diciamo così, il fatto che era presente, come dire, era già attuata una persecuzione nei confronti delle opposizioni socialdemocratica, comunista e anche cattolica in Austria prima dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale. Però anche qui nascono movimenti diciamo di resistenza in senso lato, nel senso, ad esempio, in Austria non ci sono azioni armate, anche perché una parte importante della popolazione ha accolto positivamente l'annessione dell'Austria alla Germania nazista. Quindi, come dire, l'ambiente, quando noi diciamo appunto che i partigiani sono i pesci che nuotano nell'acqua della popolazione che appunto li sostiene, ecco, nel caso dell'Austria l'acqua non c'era, cioè, per cui sono diciamo realtà significative, ma che non hanno una possibilità, come dire, di espansione significativa. Considerate comunque che si parla che durante appunto la fase finale 70.000 austriaci sono stati arrestati e condotti in campi di concentramento, quindi stiamo parlando comunque in realtà non per azioni armate, ma per azioni di protesta, per scioperi, eccetera, eccetera. Bene, io avrei, prima di concludere, avrei di andare alle conclusioni, avrei un ultimo punto che mi piacerebbe affrontare, se siete d'accordo, che è quello del contributo italiano alle resistenze europee, perché spesso quando noi parliamo di resistenza parliamo solamente della resistenza in Italia, però visto che stiamo parlando di resistenze europee mi sembra che possa essere utile questa cosa. Perché? Perché l'Italia è stato così anche per altri paesi, ma in effetti l'Italia ha dato un contributo non indifferente alle resistenze in Europa. Nel caso del Belgio e della Francia, perché c'era una forte immigrazione ovviamente, sia immigrazione generale sia immigrazione politica avvenuta dall'Italia nel corso degli anni 20-30 dopo la nascita del fascismo, e quindi, come dire, sono questi militanti italiani che casomai hanno vissuto anche l'esperienza della guerra di Spagna che spesso, come abbiamo visto anche prima rispetto alla Francia, sono, come dire, gli iniziatori della resistenza, ma anche perché sono, come dicevo, sono i primi a essere perseguitati. Voi considerate che quando, ad esempio, quando la Germania occupa la Francia, Mussolini chiede alla Germania di arrestare tutti gli antifascisti schedati e di consegnarli all'Italia, e cosa che fanno, cioè danno la caccia agli antifascisti, ai comunisti, agli anarchici soprattutto, che sono presenti in Francia, perché siano consegnati all'Italia. Quindi c'è una collaborazione tra le polizie da questo punto di vista, per cui è anche normale che siano quelli immediatamente perseguitati, che siano quelli che si danno immediatamente da fare. Un'altra area ovviamente è quella dei Balcani, perché dopo l'8 settembre, appunto, storie che conosciamo, quindi non entro nel merito, insomma, cioè da un lato c'è la cattura di quasi 800.000 soldati italiani tra l'Italia e i Balcani, che vengono poi portati in Germania, e almeno una parte viene portata in Germania, circa 650.000 trattenuti come internati militari, categoria che non esisteva, diciamo, nella normativa, perché esistevano solo la figura dell'internato civile, ma non quello militare. Ma chiaramente non potevano dire che erano prigionieri di guerra, perché l'Italia con la Repubblica Sociale Italiana era un paese alleato e la Germania non poteva tenere prigionieri degli alleati. Quindi si inventano questa categoria dell'internato militare, che noi oggi finalmente consideriamo una forma di resistenza, nel senso che il loro rifiuto, il rifiuto della stragrande maggioranza di questi soldati a accettare l'invito ad arruolarsi nell'esercito fascista e quindi essere liberati dai campi di prigionia per venire in Italia, è stato un atto di resistenza. E questo quindi possiamo considerare. Però ci sono anche quelli che reagiscono. Sappiamo Cefalonia, Corfù, Kos, sappiamo tutte queste vicende. Non sappiamo che in Corsica le truppe italiane combattono con i francesi per la liberazione dell'isola, perché non lo sa quasi nessuno, chissà perché non le divisioni italiane Cremone e Friuli combattono in Corsica per la liberazione dell'isola, poi vengono in Italia, diventano poi gruppi di combattimento che seguono gli inglesi sull'Adriatico e che poi inquadrano centinaia di partigiani italiani, e sono un'esperienza, soprattutto il gruppo di combattimento Cremona, un'esperienza molto originale ed importante. Poi abbiamo appunto quei soldati, quegli ufficiali italiani che nei diversi paesi combattono inquadrati nelle resistenze locali, con questa particolarità che erano improvvisamente gli occupanti, i nemici diventano appunto alleati e partecipano alla resistenza. Quindi un salto, come posso dire, anche mentale importante, e che non tutti riescono a fare, non solo da parte dei soldati ma anche da parte dei partigiani che li accolgono. In Albania nasce il battaglione Gramsci, che partecipa, che si unisce all'esercito albanese di liberazione nazionale. In Grecia la divisione Pinerolo entra nella resistenza, ma appunto a conferma di questo che vi dicevo, i greci a un certo momento li isolano, li mettono, vengono internati in un campo di concentramento perché non vogliono la presenza di italiani. In Jugoslavia combatte una divisione Garibaldi, poi nasceranno altre formazioni, fino a 20.000 uomini, fino a 20.000 partigiani italiani combattono nella resistenza jugoslava. 20.000 partigiani e una donna, adesso con Natascia abbiamo avuto una partigiana di Montefiorino che ha fondato i gruppi di difesa della donna Montefiorino, che dopo l'attacco tedesco alla zona libera è riuscita a passare le linee, è arrivata ad Ancona, si è imbarcata per andare a combattere con i partigiani jugoslavi. Quindi, come dire, una donna con una certa, come dire, solidità da questo punto di vista. Come si chiamava? Natascia? Aurora Varignano. Era Aurora, Aurora è il nome di battaglia. Varignano, scusate, si chiamava. Quindi insomma abbiamo una esperienza resistenza, poi altri partigiani italiani combatteranno in Unione Sovietica. Insomma, possiamo dire che in quasi, poi è vero, tanti, ad esempio, dall'estero hanno combattuto la resistenza italiana, perché abbiamo avuto tante nazionalità dentro la resistenza italiana, però secondo me è importante, perché poi tutto il ragionamento, e vado a concludere, giuro, perché sono due fogli, noi dobbiamo un po' abituarci, anche se molto faticoso, perché poi mi rendo conto anch'io di aver creato tanta confusione, però dobbiamo abituarci a, appunto, considerare la resistenza italiana non come una cosa a sé stante, ma come una cosa che si inserisce in un contesto europeo. Più lo facciamo, più siamo anche forti nel contestare tutta una serie di diciamo, accuse o che vengono mosse nei confronti della giustizia italiana. Faccio un solo esempio: il problema della violenza post-bellica. Insomma, vorrà dire qualcosa se in tutti i paesi dove c'è stata la resistenza ci sono episodi di uccisioni subito dopo la liberazione, di collaborazionisti, di persone che erano... Cioè, non è un fenomeno italiano, è un fenomeno che riguarda tutte le resistenze europee. E allora, se tu lo contestualizzi, capisci che ci sono dei processi per cui non è che sono i partigiani italiani cattivi, ma che c'erano delle questioni più generali che hanno determinato dei comportamenti comuni in tutta Europa e in alcuni paesi con un'intensità enormemente più, vi citavo appunto il caso della Jugoslavia, cioè stiamo parlando di cifre che proprio vanno al di là di ogni immaginazione se vediamo il nostro caso italiano. Bene, concludiamo. E allora, è chiaro, a proposito di banalità, che la guerra in Europa è stata vinta dagli eserciti alleati. Su questo credo che nessuno possa mettere in dubbio. Ma, detto questo, nessuno può negare che le resistenze hanno dato un grande contributo anche dal punto di vista militare. Pensiamo ai servizi informativi straordinari che hanno consentito agli alleati di conoscere i movimenti delle truppe nemiche, che hanno consentito di individuare le posizioni dei comandi nazisti. Il fatto che grazie alle resistenze si sono state immobilizzate intere divisioni tedesche e quasi tutte le forze collaborazioniste, che quindi invece di si sono dovute occupare di partigiani invece di andare al fronte a combattere contro gli alleati. Il continuo intralcio, lo spostamento delle truppe con sabotaggio dei trasporti, il clima di insicurezza in cui sono stati costretti a vivere i soldati tedeschi, le lettere che mandavano dal fronte i soldati tedeschi sono piene di questo terrore dei partigiani, ma anche il salvataggio di prigionieri e aviatori caduti in territorio nemico, sono migliaia, decine, forse in tutta Europa decine di migliaia. Quindi, come dire, appunto, la guerra è stata vinta dagli eserciti, non poteva essere altrimenti, perché la resistenza aveva un'altra dimensione, ma la resistenza in Europa, le resistenze in Europa hanno avuto un ruolo importantissimo dal punto di vista militare. L'altro aspetto che mette in difficoltà tutti i movimenti collaborazionisti che si formano in diversi paesi, contrastando la loro azione che era finalizzata alla persecuzione degli ebrei o delle altre minoranze, lo sfruttamento intensivo del patrimonio agricolo industriale, l'organizzazione e il trasferimento di manodopera in Germania per appunto lo sfruttamento nelle fabbriche del Reich e soprattutto il contrasto, l'affermazione dei disvalori che avevano contato l'esperienza europea nel corso degli anni 30 e 40. Cioè, non ci fosse stata la resistenza, come dire, sarebbe stato problematico appunto perché questi movimenti collaborazionisti avrebbero avuto campo libero. Detto questo, è indubbio che il valore della resistenza è stato soprattutto sul piano morale e politico, perché grazie alla resistenza segmenti significativi della popolazione dei diversi paesi sono diventati attori della storia, superando attendismo e rassegnazione. Non si sono rassegnati all'idea di una Europa nazificata, del nuovo ordine europeo, cioè dell'idea di ridefinire l'identità europea su base razziale, e non hanno piegato la testa, anche rischiando la loro vita. E nell'esperienza, soprattutto delle zone libere, sono state sperimentate nuove forme di democrazia che hanno anticipato quelle che saranno conquistate dopo la liberazione. E anche attraverso la stampa clandestina entrano in circolo delle nuove idee d'Europa, concezioni diverse del rapporto tra i popoli, le aspirazioni a una pace duratura, aspettative per un mondo migliore. Quindi emerge un nucleo forte di valori comuni che credo sia testimoniato in modo straordinario dalle lettere dei condannati a morte della resistenza europea, cioè quello lì è la tavola dei valori dell'Europa, perché lì in queste lettere, che non a caso sono, i messaggi sono da ogni paese uguali. Ecco, per cui possiamo anche dire che se da un lato le resistenze nascono diciamo, per dare una risposta a problemi nazionali nel corso del loro sviluppo, arrivano, approdano chi più chi meno anche a delle visioni, diciamo, sovranazionali e soprattutto a un'idea che l'Europa debba essere qualcosa di diverso da cosa era stato prima, cioè dagli stati nazionali che combattevano continuamente tra loro, sostanzialmente. E si apre un dibattito federalista nel quale noi siamo, come italiani, abbiamo dato un contributo straordinario, con il sapete, il manifesto di Ventotene per gli Stati Uniti d'Europa, che porta all'elaborazione di un programma comune di Europa federale che verrà approvato da esponenti di 9 movimenti partigiani che si ritrovano a Ginevra nel maggio del 1944. Poi, anche se questo, diciamo, processo non avrà l'esito sperato, soprattutto immediato, sarà un percorso più articolato e più complesso, comunque, diciamo, le basi, le riflessioni per un'idea di un'Europa unita, di un'Europa che non sia di nuovo la riproposizione di stati nazionali che confliggono tra di loro, nasce durante la Resistenza. E quindi, in sostanza, e ho finito citando Collotti, che ha scritto: la guerra poteva essere vinta dalle potenze della coalizione antinazista anche senza la Resistenza, ma senza di essa l'Europa non avrebbe riacquistato una sua identità, che consisteva in primo luogo nel rifiuto del nuovo ordine delle potenze dell'asse, ma soprattutto nella prefigurazione di una nuova gerarchia di valori anche nei rapporti fra i popoli e gli stati. Quindi poteva anche, appunto, la guerra essere vinta senza la Resistenza, ma senza la Resistenza non ci sarebbe stata l'Europa che oggi conosciamo. Grazie. Ringrazio Silvio Gandhi per la chiarissima esposizione, e neanche non sia stato neanche un'ora e mezza, qualcosa più che. Adesso ci aspettiamo un po' di domande. C'è bisogno di chi è che porta il microfono, c'è qualcuno volontario che se tu volta. Vi prego di qualificarvi sempre, grazie. Paolo Fossati di Mariano, innanzitutto grazie per la bellissima conferenza che è avvenuta, veramente molto molto interessante, che ci fa molto riflettere. Ci sarebbero tantissime domande, due veramente velocissime. La prima è: ci fu mai una collaborazione fattiva fra le varie resistenze in Europa? Nel senso che a me, lei ci ha parlato anche dei conflitti all'interno delle resistenze all'interno di questo paese. Ecco, io questo argomento so pochissimo, se devo pensare a cosa mi viene in mente magari al rapporto fra la resistenza italiana e quella jugoslava sul confine orientale, ma anche su altri casi mi vengono in mente degli incontri fra i resistenti italiani e francesi, che però cosa si conclusero con lo sgarbo del Colle di Tenda. Quindi anche lì, insomma, diciamo, le chiedo se ci fu quel... Hai fatto la domanda e data la risposta. Sono gli unici due casi di collaborazioni in Europa, quindi altri proprio non... Cioè, o meglio, di accordi, poi che ci sono state collaborazioni perché, non so, una formazione sconfinava nel territorio, alleanze, ci sono stati accordi, come dire, temporanei, però il tentativo di arrivare, appunto, alla definizione di un accordo sistematico anche per, appunto, le questioni dei confini, sono i due casi che hai citato, quindi sei preparatissimo. Sono gli unici due. L'altra domanda, veramente velocissima, è: ci fu in Europa una resistenza che si può definire una resistenza ebraica, nel senso di un'essenza ebraica non inserita in altri contesti magari politicizzati, ma proprio autonomamente ebraica, oppure la resistenza degli ebrei, diciamo, come popolo, non ci fu perché magari erano più orientati alla costruzione dello Stato di Israele? Rispondo così o vogliamo raccogliere un po' di domande? Ci sono altre domande? Sì. Vado subito. Una curiosità sulla preoccupante, diciamo, strategia inglese in Grecia, no? Nel senso che hanno in pratica disarmato, non c'è un'armata di partigiani comunisti. Allora, Churchill Ah sì, sono Passeroni della, dell'Ampi di Mariano. Qui, allora, Churchill aveva una visione molto lungimirante, no? Penso. Allora, l'anticomunismo degli inglesi ha avuto la supremazia su questa visione lungimirante, cioè, che aveva visto appunto nel caso della Jugoslavia agire completamente diversamente, cioè in modo diverso, o ci sono cause particolari all'interno della Grecia, non so, il pericolo di... Danilo Olivia dell'Abilidoglio. Ecco, mi sembra di avere capito in questa giornata, no? Che appunto la resistenza è stato anche un fenomeno nuovo nelle guerre mondiali, cioè non c'è mai stato prima, se non sbaglio, o lo chiedo, almeno nell'ultimo secolo, no? Dal 1850 in avanti, no? E questo è un fatto secondo me importante, anche perché, e dopo faccio la domanda, perché probabilmente, cioè sicuramente la resistenza è stata anche una presa di coscienza di tantissime persone che si sono ribellate anche agli stessi eserciti, in certi casi sarebbero stati considerati disertori, cioè, ma non soltanto dall'esercito ma anche dalla popolazione, no? Cioè, oppure pertanto è questo fatto nuovo. Volevo chiedere, primo, che ruolo ha avuto con gli eserciti veri e propri, no? Se è stata effettivamente poi riconosciuta sia durante che dopo. Poi questo penso che sia stato anche un insegnamento anche per il futuro, perché ci sono state anche tante altre guerre successive dove momenti di resistenza, no? Che vuol dire anche, cosa volevo dire? Che è anche un senso anche diverso. La resistenza ha saputo cogliere una volontà di cambiare, ecco, l'ultima parte quasi Collotti è così, secondo me, importantissima, perché ha colto quel divenire, no? che poi dopo ha portato a un'Europa, alla divisione anche tra l'Europa occidentale e quella orientale, no? Diciamo, la guerra fredda e tutto il resto, però è che ha dato comunque la base e la struttura di un nuovo modo di vedere le cose. Non so come qualificarmi, se come Ampi di Como o come Istituto di Storia Contemporanea. Scherzo, per di Gio. Parto anche dal fondo, e cioè dal rapporto tra la guerra guerreggiata degli eserciti alleati e la resistenza. Perché mi ha molto colpito e mi ha sollevato un sacco di dubbi il libro di Vévorka, La resistenza in Europa, che a fronte di una documentazione quasi sterminata e dal basso della nostra ignoranza, che non conoscevo assolutamente, poi secondo me non riesce a risolvere questo problema, o forse non lo vuole neanche risolvere. Cioè, parte dal presupposto che la guerra gli alleati l'avrebbero vinta comunque, e l'hanno vinta comunque senza un ruolo, senza le resistenze, ma poi il ruolo delle resistenze non è così marginale, che è un modo un po' tortuoso, certo, su credo 500 pagine la tortuosità un po' si perde, ma poi quando uno arriva in fondo e cerca di rimettere insieme tutto quello che ha letto, questa è l'impressione che ho avuto io, che mi sembra il tema centrale di questa cosa, anche perché si riflette poi sui comportamenti, sulle procedure messe in atto dagli alleati. Quindi aiuto un po' sì e un po' no, aiuto più in Francia in funzione pro sbarco, che poi sarebbe Normandia, e meno in Italia, però con un ruolo che fosse quello della resistenza italiana, ancorché stretto come tempi, è più radicale proprio in termini non solo politici ma anche tra virgolette militari o comunque di appoggio. E anche questa dinamica, questa sarebbe da definire la dialettica, ma il termine è un po' troppo elegante, tra la guerra combattuta sul terreno, la guerriglia combattuta dalle resistenze e la guerra rovesciata dall'alto con i bombardamenti. A me risuona continuamente nelle orecchie tutte le volte che penso a queste cose al libro di Paggi, La Repubblica delle Bombe, cioè dove in bene e male il ruolo dei bombardamenti a tappeto degli alleati sulle città europee, incapaci di qualsiasi bomba intelligente, ha una cosa che poi sposta continuamente e che fa deflagrare anche i conflitti sul terreno. Ecco, su questo, come dire, qualche parola di ulteriore approfondimento mi interessa. Antonio. Okay. Sono Gigi Diego del Monguzzo. Io volevo sapere che peso hanno avuto le varie confessioni religiose nella formazione e nella crescita delle varie formazioni partigiane. Perché almeno dalle nostre parti formazioni appunto di tipo religioso erano in contrasto con formazioni laiche e così via. E che peso hanno avuto questo nel prosieguo della resistenza? Grazie. Un'altra conferenza. Prendo, sì, siamo già a tre conferenze. Monica Consogni, ne ho scritta Anpi, Mariano Comensi. Una domanda legandomi alla prima. Invece il ruolo degli tigani, soprattutto nell'est Europa e insomma popolo errante in Europa nella resistenza, se ci sono state formazioni anche legate alla resistenza più, le formazioni più importanti, ecco, in Europa, se ci furono dei gruppi slegati però formati solo da zingari, zigani e ragazzi. No, fatemi delle domande più difficili, no? Averlo saputo ci saremmo impegnati. No, allora, sulla resistenza ebraica, premesso che ovunque arrivavano i nazisti, la prima cosa che facevano era dare la caccia agli ebrei, quindi bisogna considerare, come dire, che nel caso degli ebrei, intesi, anche qui credo che sia importante, come famiglie, cioè, per essere chiaro, se un giovane italiano, diciamo, non di religione ebraica, decideva di fare il partigiano, la sua famiglia comunque, come dire, era lì, stava a casa, cioè i nonni, i genitori, i figli, se ce li aveva e così via. Nel caso degli ebrei la caccia era a tutti gli ebrei, quindi bisognava preservare interi nuclei familiari. Questo ovviamente rende molto più complicato il discorso, perché appunto i nazisti vanno a caccia degli ebrei subito e appunto sono gli ebrei in quanto tali, a prescindere da ciò che fanno, da quello che pensano, che sono obiettivo. E quindi, come dire, ogni discorso sulla resistenza ebraica deve comunque partire da questa condizione particolare, diciamo. E nascono dei movimenti partigiani sicuramente in Polonia. In Polonia nascono nelle foreste, queste grandi, poi è uscito un film, adesso non mi ricordo il titolo, che racconta la storia dei fratelli che guidano appunto una delle più importanti brigate partigiane ebraiche, soprattutto in questo caso che operano nei territori, diciamo, sovietici occupati dai nazisti, e quindi con anche tutta una dinamica di rapporto, perché comunque il problema è che l'antisemitismo era diffuso tra le popolazioni, cioè non era un problema solo, come posso dire, dei nazisti. I pogromi in Polonia c'erano stati prima e ci saranno anche dopo la fine della guerra, cioè nonostante. Quindi sicuramente il paese che ha conosciuto una maggiore, diciamo, presenza partigiana ebraica è la Polonia, sicuramente. Anche in Francia nascono delle organizzazioni, piccoli gruppi partigiani, comunque reparti partigiani formati prevalentemente da ebrei, da giovani ebrei. Nel caso dell'Italia noi conosciamo l'esperienza della Brigata Ebraica, che nasce in Palestina e poi inquadrata negli inglesi partecipa alla campagna d'Italia, tant'è che, se vi capita, consigliavo loro una visita al museo della battaglia del Sennio di Alfonsina in provincia di Ravenna, dove viene raccontata la storia sia dei gruppi di combattimento, in particolare del Cremona, ma anche della Brigata Ebraica, che ha avuto lì sul fronte del Sennio, diciamo, un ruolo importante. Quindi, come dire, in tutta Europa ci sono ebrei che entrano nelle resistenze. Anche in Italia ce ne sono tanti e così via, però diciamo di formazioni che assumono, come dire, un'identità specifica, appunto, che io sappia, perché adesso non voglio fare la parte di quello che sa, cioè per quello che è la mia conoscenza, diciamo sicuramente Polonia e Francia e l'Italia, ma per appunto la presenza di questa brigata ebraica che combatte però con gli alleati. Per quanto riguarda la Grecia, appunto, il problema è che purtroppo le varie storie, diciamo, delle resistenze nazionali si confrontano con le grandi strategie e con le visioni del mondo che gli alleati elaborano nelle varie conferenze internazionali e autonomamente ognuno rispetto alle aree che sono considerate aree di propria influenza, per cui appunto i paesi dell'est Europa che sono sotto l'area di influenza sovietica, per cui gli alleati non si preoccupano più di tanto di intervenire, e altre situazioni. Nel caso della Grecia effettivamente è una cosa drammatica, perché in qualche modo c'è un'ostinazione di Churchill e del governo inglese di ritenere necessario per la Grecia il ripristino di un sistema politico della monarchia, di un governo comunque appunto di quel tipo, e la necessità di impedire che si sviluppi un forte movimento partigiano comunista, che ci pone di fronte a una totale contraddizione. Cioè, mentre in Jugoslavia, come dire, questo problema passa in secondo piano rispetto al tema militare, perché poi l'aiuto inglese a Tito nasce soprattutto da un discorso di tipo militare e forse dalla difficoltà a districarsi, diciamo, nel pantano dell'ex Jugoslavia, dove appunto croati, sloveni, bosniaci, musulmani, minoranze di qua, minoranze di là, quindi, come dire, trovare un assetto per cui probabilmente, ma ripeto, su questo non sono in grado di dare, diciamo, era molto più complicato vedere una prospettiva e indicare una prospettiva che tutelasse in modo chiaro poi anche gli interessi inglesi. Evidentemente la Grecia, nella strategia, come posso dire, di controllo del Mediterraneo invece dal punto di vista degli inglesi è fondamentale, tant'è che intervengono militarmente contro i partigiani greci, che vengono anche fondamentalmente abbandonati sia dagli jugoslavi che dall'Unione Sovietica, cioè alla fine, come dire, cioè è una situazione molto complicata, poi è sempre difficile perché bisognerebbe appunto approfondire questi aspetti. Quando c'è stato, no? Oddio, mi sono segnato una domanda, riconoscimento degli eserciti, dunque chi era che mi aveva fatto il discorso tra guerra... Sì, l'hanno fatto io. Scusate, ma comincio a essere un po' stanco, ho perso... Veniva, hai fatto tu. Sì, l'ho fatto io, ho detto sia appunto come è stata riconosciuta sia prima che anche dopo. Sì, sì. Scusami, perché... No, ma non c'è nessun problema. Ma come dicevo all'inizio, il problema è che... allora, c'erano state esperienze di guerriglia limitata nelle guerre napoleoniche, nelle insurrezioni in Spagna, ma erano state esperienze limitate che non avevano portato a nessun pensamento o ripensamento del come si fa la guerra. Quindi quando scoppia la Seconda Guerra Mondiale, tutti gli eserciti, come dire, hanno... una cultura militare abbastanza comune, lo si vede anche ad esempio sul tema delle rappresaglie, cioè, quando appunto si processa Kesselring in Italia, in Inghilterra diversi ufficiali dicono ma in fondo lui ha combattuto correttamente contro i nostri eserciti perché della popolazione civile non interessava niente a nessuno, cioè, e nemmeno delle torture inflitte ai partigiani o delle violenze inflitte ai partigiani, perché comunque c'era una cultura militare, e per gli inglesi prima e per gli americani, poi gli americani ne parliamo, è proprio una scoperta di un mondo che non era conosciuto, se non appunto per piccole, perché anche la guerra di Spagna non è una guerra di guerriglia, è una guerra regolare, tra virgolette, tra eserciti. Quindi anche quando noi parliamo dei combattenti di Spagna che fanno la guerriglia, sono tra i primi perché hanno già avuto il battesimo del fuoco e quindi sanno, come dire, hanno già sparato, ma no, anche loro non hanno un'esperienza di guerriglia. E questo è importante perché... Questo porta anche al fatto che nelle prime resistenze, sia militari sia politiche, appunto si pagano anche dei prezzi, si fanno degli errori, perché appunto c'è questa inesperienza generale del come si conduce una guerra di guerriglia. E appunto è un processo di continua scoperta queste esperienze, perché appunto sono esperienze, come dicevo all'inizio, che noi in Italia vediamo compresse nel giro di pochi mesi, ma che in Europa vengono, con diversità tra un paese e l'altro, invece con dei tempi molto più dilatati. Sulla questione di Vivorca, allora, Vivorca ha pubblicato, è uscito un libro per Einaudi, sulla resistenza nell'Europa occidentale, che è un libro importante perché... Non esistono molte pubblicazioni sulla resistenza in Europa, anzi non c'è quasi niente. E comunque quello che c'è è anche molto vecchio, molto legato anche a una storiografia, insomma, che oggi non riteniamo più sufficiente. Il problema qual è? Che Vivorca ha scritto un libro che dovrebbe essere la storia del come gli inglesi e gli americani hanno sostenuto o non sostenuto le resistenze in Europa, non fa la storia delle resistenze, e ha questa tesi molto forte che sostanzialmente dice, anche se è contraddittoria perché è vero quello che tu dici, che sostanzialmente dice insomma le resistenze sono nate e si sono potute sviluppare perché ci sono stati gli alleati. Ora, a questa affermazione ci sono due contestazioni da fare. Una, che lui guarda solo i paesi dell'Europa occidentale. Vai a vedere la Jugoslavia. La Jugoslavia, la resistenza, quando nasce, non c'è un inglese neanche a vederlo in fotografia. E l'esercito partigiano di Tito ci mette 2 anni prima di avere una missione alleata che venga paracadutata presso il comando di Tito e cominci a vedere che in realtà loro stanno facendo certe cose e quindi aiuti, sostegni, eccetera, eccetera. Quindi è una tesi che intanto è errata dal punto di vista proprio del fatto che ha scelto solo un pezzo dell'Europa, insomma, ma anche da noi è vero che in alcuni paesi, tipo del nord Europa, il ruolo dei servizi segreti, dei comandos, ad esempio la Norvegia, non l'ho detto all'inizio, però in Norvegia molte delle azioni avvengono direttamente con la partenza dalla Gran Bretagna di comandos che vanno a fare azioni in Norvegia, perché chiaramente la Norvegia aveva queste coste che nessun esercito poteva controllare completamente, quindi era abbastanza facile fare, tra virgolette, fare questi tipi di azioni. Però appunto, se pensiamo anche solo alla resistenza italiana, cioè insomma, dire che la resistenza italiana è nata grazie agli alleati si fa fatica. Chiaro, ci sono rapporti, è importante il riconoscimento degli alleati, anche per quel discorso che facevo all'inizio sulla legittimità, cioè avere una copertura, come dire, una legittimità appunto istituzionale è importante per dare un senso, come dire, al proprio contributo. Anzi, spesso quando noi parliamo di attendismo, spesso ad esempio in ambito religioso, quello che noi chiamiamo attendismo in realtà è un conflitto interiore molto forte sulla legittimità, cioè da dove discende la legittimità del fatto che io uccido un mio simile. Questo è presente nel mondo cattolico, mondo religioso, ma è presente ad esempio nella cultura socialista, dove il pacifismo socialista, cioè, ma anche in parte nel mondo comunista, perché ad esempio in Francia quando nasce la resistenza, dopo le prime azioni di uccisione di soldati tedeschi, dentro il mondo comunista si discute, ma noi che abbiamo ucciso, casomai era un operaio di una fabbrica costretto da Hitler a combattere, e quindi in nome dell'internazionalismo noi cosa facciamo? Uccidiamo uno che casomai in un altro contesto avrebbe lottato insieme a noi per i diritti dei lavoratori, cioè capite, ci sono discussioni, pacifismo socialista ad esempio anche in questo caso, cioè, ma anche il mondo comunista è attraversato soprattutto negli anni 30, è attraversato da un dibattito forte ad esempio sul discorso del terrorismo, cioè quando appunto avvenendo anche l'Italia i primi attentati, gli attentati degli anarchici sull'uomo, diciamo che c'è tutto un dibattito sull'uso del terrorismo che vede ad esempio nel mondo comunista molti essere contrari, cioè l'idea che l'azione deve essere un'azione collettiva, deve essere un'azione di massa, e quindi quando si fanno gli attentati, beh, insomma il dibattito è sempre aperto, io ce l'ho presente per le aree che ho studiato, vuol dire quando il tema della rappresaglia, se fare un'azione, quali sono le conseguenze, cioè solo certi imbecilli, come dire, che scrivono certi libri possono far finta che non sia esistito questa continua discussione, che non è mai esistita nel campo fascista o nazista, una continua discussione dentro i movimenti partigiani sul senso che aveva togliere la vita ad altre persone. Questo è molto importante, secondo me, da avere presente. La domanda sul ruolo delle religioni nella formazione partigiane, mi arrendo da ateo, mi arrendo, sono in difficoltà, nel senso che in realtà in parte c'è questa questione che vi dicevo adesso, cioè per chi è fortemente credente il togliere la vita a altre persone in una dimensione che non sia totalmente legittimata dalle istituzioni è un problema serio, però non possiamo nascondere che c'è la fase iniziale della resistenza, soprattutto quella del salvataggio, ha come elementi, diciamo, tra i vari elementi che costruiscono questa rete enorme di salvataggio di migliaia, decine di migliaia di persone che sono gli obiettivi del nazismo, il ruolo delle chiese, il ruolo dei vari ordini religiosi, il ruolo delle minoranze, pensiamo ad esempio al salvataggio degli ebrei in Francia, ad esempio protestanti sono attivissimi, Chalmont-sur-Lignon, questo altipiano, questa realtà del centro della Francia, che è stato riconosciuto come intero paese giusto tra le nazioni, è l'unico caso al mondo di un intero paese che è stato riconosciuto giusto tra le nazioni, è questo paese, Chalmont-sur-Lignon, ormai c'ho la gola, Sur-Lignon, che ha salvato centinaia, migliaia di ebrei dalla deportazione. Quindi in Germania, ad esempio, Rosa Bianca, ci mancherebbe altro. Cioè, quindi voglio dire, ci sono, ma anche ad esempio in Cecoslovacchia, quando fanno l'attentato a Edric si nascondono in accordo in una chiesa quelli che fanno l'attentato, perché ci sono queste reti molto attive. Chiaramente un conto è la chiesa ufficiale che mantiene, come dire, determinate posizioni, un conto è l'agire concreto poi di parroci, di ordini religiosi, di suore e quant'altro. Per quel discorso su gli zingari o insomma i vari etnie, rom, sinti e quant'altro, vale secondo me il discorso che abbiamo fatto prima anche sugli ebrei, cioè il problema vero è che gli zingari viene data la caccia immediatamente, cioè ad esempio quando nasce lo Stato indipendente della Croazia, gli Ustascia, che sono stati finanziati da Mussolini negli anni 30 come elemento di destabilizzazione dell'area dei Balcani, la prima cosa che fanno, danno la caccia agli ebrei e agli zingari per ucciderli, e lo fanno. Questo avviene anche in altri paesi, in Ungheria avviene, per cui in questo caso io non sono a conoscenza di esperienze resistenziali che vadano oltre, come dire, la singola adesione di persone che appartengono appunto a questa comunità e che hanno fatto, non sono a conoscenza invece di formazioni o cose di questo tipo. Casomai ci sono state, ma sono io che proprio non lo so. Questo. Posto? Sono 5 minuti, insomma, vi ho tenuto una bella... Allora, io, vabbè, a nome della sezione Ampi di Giuseppe Emanu ringrazio per questa conferenza, lezione, non so bene come chiamarla, interessantissima. E poi, essendo anche consigliera comunale qui a Giate, porto anche i saluti di tutta l'amministrazione, sindaco, assessore alla cultura, che per vari motivi non sono qua, però salutano e ringraziano, e grazie a tutti. Sì, vuole chiedere se avete tutti la tessera. Allora, intanto grazie a Claudio Svingatti per la lezione che ci ha dato oggi. Noi proseguiamo in questo ciclo, fra 15 giorni ci troviamo in Centro Lago, non sappiamo ancora bene dove esattamente, comunque è nella zona della Tremezzina, Menaggio, che dobbiamo deciderlo ancora, perché pare che non sia corretto il posto dove abbiamo pensato di farlo. Comunque vi informerò su questo. Proseguendo in questo, noi abbiamo appunto fra 15 giorni al 30 di marzo questa sul lago, e poi avremo l'ultima, che è quella di Como, nel salone del CNA. Di queste conferenze, come abbiamo già annunciato in passato, stiamo facendo i CD per chi è interessato poi a ottenerlo. Intanto le conferenze fatte finora sono tutte sul nostro sito tutte e tre sono già sul sito, per cui chiunque vuole andare a visionarli basta andare su ampicomo.it e li trova tutti e tre. Che dire, grazie, siete sempre numerosi, speriamo di vedervi ancora più numerosi la prossima volta. La parola a Fabio. No, scusa, volevo aggiungere una cosa sola, perché la lezione di oggi, la chiamo lezione perché chiamarla chiacchierata mi sembra veramente, cioè è perfettamente in tema con uno dei grandi simboli di Como, che è il monumento alla resistenza europea, che oggi non abbiamo ricordato, ma che invece bisogna ricordare, non lo mettevo in dubbio, e che è proprio questa cosa qui, cioè è che ci spinge a imparare queste cose. Volevo solo ricordarlo perché, siccome abbiamo fatto tre anni fa, un convegno che si chiamava proprio Resistenza più Europa o Europa più Resistenza. Abbiamo fatti due, quello regionale. No, poi io dicevo quello in comune con tutti. Mi sembrava importante ricordarlo. Infatti, noi abbiamo chiesto proprio a Claudio ieri di andare a visitarlo e è andato lì. Me l'hai dato lo stesso adesso. Grazie comunque. Grazie. Grazie. Grazie.